Però vorrei partire da un verso biblico, quindi Ioana, vai con la zia. In 1 Tessalonicesi, spero che vi sia arrivato questo verso, se no lo leggo io, però in 1 Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 6 e 7, c'è questa bellissima affermazione. È l'Apostolo Paolo che dice così: voi siete divenuti imitatori di noi e del Signore. È un verso che si abbina bene all'anno che stiamo vivendo, un anno nel quale stiamo ripetendo: come te, Signore, vogliamo imitarti. Però l'Apostolo Paolo dice: siete divenuti imitatori nostri e anche del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia dello Spirito Santo. Questa contraddizione, sofferenza e gioia. Gioia dello Spirito Santo e sofferenza della vita, delle circostanze. Così, ascoltate ora, così da diventare un esempio a tutti i credenti della Macedonia e della Caia. E poi li elogia e va avanti dicendo: infatti la vostra testimonianza echeggia nelle chiese, la vostra testimonianza è di edificazione per molti, la vostra testimonianza ha un impatto nella vita di tante tante persone. Quindi che cosa ci sta dicendo questo verso? Che noi, nel crescere, nell'imitare Cristo e nel seguire esempi di uomini e donne di fede, abbiamo l'opportunità di diventare noi stessi esempi per altri. Quindi il Signore non vuole che l'effetto domino si fermi con te, ma che vada avanti attraverso di te e che tu e io possiamo crescere ad imitazione di Cristo e di chi cammina con Lui, per poi diventare anche noi un esempio per altri. Quanti vogliono vivere pienamente questa chiamata di vita, essere esempi per altri, far echeggiare la nostra testimonianza affinché altri possano conoscere la salvezza di Cristo? Posso chiederti di alzare la mano se sei d'accordo con me? Bene, bene, su questo siamo d'accordo, come siamo d'accordo anche sul fatto che non conosciamo la matematica, la geografia e la grammatica. Però è bellissimo essere in chiesa, in comunità, e desiderare tutti di voler crescere. E questo verso suggerisce un modo anche per crescere, l'ho già nominato, che è il prendere ad esempio altre persone. La sapienza viene proprio da questo. Proverbi, che è il libro che ci invita più di ogni altro libro a vivere una vita di sapienza, dice a un certo punto, lo leggiamo insieme, capitolo 19, versetto 20: ascolta il consiglio e ricevi l'istruzione. Se non ascolti, non ricevi. E per ascoltare devi voler ricevere. Devi poter essere in quella condizione di umiltà per dire, e questo è qualcosa che ci terrei che tutti noi considerassimo per la nostra vita, arrivare a dire che non sono solo gli altri che hanno bisogno di me, ma io ho bisogno degli altri. Puoi arrivare a questa conclusione? Posso invitarti a giungere a questa conclusione questa mattina e a dire: non sono solo gli altri che hanno bisogno di me, non sono io il più saggio di tutti, non sono io arrivato, non sono io meglio di chiunque altro, ma io ho bisogno degli altri, io ho bisogno del consiglio di altri. Ci vuole umiltà, ma tutti noi nell'avere umiltà possiamo attingere ricchezza e conoscenza da chiunque, in qualsiasi esperienza gli altri vivano. E quindi Proverbi dice: ascolta il consiglio, ricevi l'istruzione affinché tu diventi saggio per il resto della tua vita. Saggio non significa conoscere la grammatica, saggio non significa conoscere la geografia, saggio non significa conoscere la matematica. Saggi si è quando si ha la capacità di vivere concretamente nella propria quotidianità i principi di Dio. Il principio della scienza, dice la parola di Dio, è il timore dell'Eterno. Se tu vuoi vivere una vita da saggio, devi poter temere il Signore e quindi sottometterti a Lui e capire come applicare nella vita di ogni giorno, in ogni stagione, attraverso ogni fase, quello che Lui ti istruisce a vivere. Questa è sapienza, e questa sapienza ti darà gioia di vita, forza di vita, rifugio di vita. E quindi noi vogliamo essere anche saggi in questo, nel considerare la vita e le stagioni dei nostri fratelli e delle nostre sorelle per confrontarci, e dal confronto nasce crescita. Quindi lo vogliamo fare con Savere Denza, che adesso invito sul palco. Vogliamo fare loro un applauso. Così stiamo comodi, sì, vieni. Buongiorno. Buongiorno. Io direi che sarebbe bello e opportuno pregare, che veramente i nostri cuori possano essere aperti a ricevere tutto quello che il Signore ha da dirci. Lo vogliamo fare? Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo pregare. Saverio, vuoi pregare per noi? Sì, grazie Padre. Ti ringraziamo per questo tempo, ti ringraziamo per la tua presenza in noi, ti ringraziamo perché tu sei grande, tu sei degno di lode, e veniamo a te con la consapevolezza che tu hai qualcosa di specifico anche oggi per le nostre vite. Ti preghiamo che tutti i cuori possano essere aperti, liberi, senza nessuna barriera mentale. Ti prego che chi è venuto con pensieri in questo momento, nel nome di Gesù, metti pace in questi pensieri, acquieta ogni cosa, perché tu fai in ogni momento e anche in questo momento qualcosa di grande, vuoi fare qualcosa di speciale e prezioso per ognuno di noi, non vogliamo perderci nulla. Grazie in Gesù. Amen, amen. Possiamo accomodarci. Bene, allora, sono passati 2 anni, poco tempo fa, proprio 2 anni. Però forse non tutti conoscono la storia e l'esperienza che avete attraversato, quindi vi va di raccontarla. Ecco, chi vuole può... Sì, faccio io, cerco di essere... brevissima, perché insomma sono 2 anni, sono stati lunghi, però cerco di essere molto breve. Nel 2022, ottobre 2022, Elias aveva quasi 4 anni, il mese successivo avrebbe compiuto 4 anni, e abbiamo scoperto che aveva una malattia molto grave, cioè la leucemia. Di là chiaramente il mondo ci è un po' cascato addosso, è stato un po', come l'ho sempre definito, uno tsunami. Tu non te ne accorgi, però sotto c'è un'onda che si sta preparando e all'improvviso ti travolge. Ed è quello che è successo, perché quando sei famiglia travolge tutti. Non solo noi come famiglia stretta, io, Saverio, Elias e Gioele, ma chiaramente la famiglia più allargata, ma anche la Chiesa, perché abbiamo sentito tanto anche da parte vostra, anche la sofferenza vissuta con noi. È stato abbastanza chiaro da subito che la situazione di Elias era abbastanza seria, perché loro catalogano la malattia in rischio basso, rischio medio e rischio alto. Elias, dopo nemmeno 15 giorni dalla diagnosi, è stato catalogato in rischio alto, nel senso che le sue terapie dovevano essere più invasive, più dure, per contrastare il ritorno della malattia, perché questo significa catalogare il rischio. E molto presto è diventato anche chiaro che, cioè si è iniziata ad avere l'idea che avrebbe dovuto fare un trapianto di midollo osseo per, come dire, sconfiggerla totalmente. Non erano sicuri di questo, perché chiaramente per quanto la medicina sia una scienza buona, però non è una scienza precisa, quindi anche per loro era tutto un divenire nel vedere come Elias avrebbe reagito. Io sono partita in quinta, appena mi hanno dato la diagnosi, chiaramente mi sono abbattuta e tutto il resto, però poi ho detto no, c'è il Signore con me. Tutto cambia, tutto si trasforma. Quando mi hanno dato la diagnosi che lui rientrava nel 5% dei bambini, delle persone malate di leucemia che aveva quella specifica malattia, cioè quella complicanza. Signore, se a te non sono difficili le cose non ti piacciono. E quindi cercavo di trovare sempre la forza di vedere il buono, però chiaramente iniziava a diventare pesante. Elias ha risposto molto bene a tutte le terapie, erano terapie brutte, io lo capivo guardando gli altri, non guardando Elias. In ospedale lui era diventato l'unico, lo chiamavano così, perché riceveva chemio, pesanti terapie, però lui stava, era presente, tutto sommato stava bene, per quanto si possa stare bene con una malattia di quel tipo. I medici erano entusiasti di come lui ha risposto molto bene a tutte le terapie, però questo non ha evitato il trapianto. Di lì a poco, quindi ottobre, a marzo abbiamo iniziato a fare noi i test per vedere se uno di noi, io, Saverio o Gioele, fossimo compatibili con lui, perché ci avevano detto faremo il trapianto solo se c'è il 100% di compatibilità, non un pochino sotto, solo se c'è il 100%, perché Elias ha già superato la malattia, quindi se facciamo questo dobbiamo essere certi di dargli il meglio. Non vi nascondo che io ho pregato che non ci fosse quel 100% con nessuno di noi, che non ci fosse in generale, perché la mia idea era Gesù fai tu, perché sapevo che cosa significava poi affrontare un trapianto. Effettivamente nessuno di noi tre era compatibile al 100%. Tiro un sospiro di sollievo. Sono passati pochissimi giorni, Elias è stato messo in un database dove fanno il match per vedere se c'è qualcuno nel mondo compatibile con lui, perché c'è questa banca dati fantastica dove persone così semplici diventano donatori, scelgono di diventare donatori. E io ci sono detti vabbè, vediamo che cosa succede. Di lì a poco ci danno il riscontro che non una persona ma due erano compatibili al 100%, e lì ci siamo detti ok, va bene, è questo quello che deve avvenire. Diana, puoi mettere la foto? E questo Elias, esattamente, esatti 2 anni fa, il 6 luglio 2023. Io non la guardo, se no inizio a prendere i fazzoletti, guardatela solo voi. Era il 6 luglio 2023 ed Elias stava infondendo, perché alla fine è solo un'infusione, il nuovo midollo osseo del donatore, e nel suo sangue ora scorre sangue austriaco. In tutto questo, no, credo che ci sono state molte valli, molto anche buie, però nell'esplorare quella che è proprio la sofferenza più acuta che avete vissuto, quando è che vi è sembrato proprio di toccare il fondo? Quando è che c'è stato proprio il momento di disperazione più pesante? Ecco. Allora, c'è stato un sentimento che ha accompagnato me e Saverio, chiaramente essendo due persone diverse, per quanto genitori dello stesso bambino, li abbiamo vissute in modo diverso, però quello che ci ha accompagnati per tutto il percorso è stato non avere la possibilità di togliergli la sofferenza a lui. Noi eravamo pronti a prendercela anche noi, ma non volevamo che la vivesse lui. E quella è stata la sofferenza più grande, non potergli impedire di soffrire, perché per quanto sì, ha reagito bene, però sapevamo che tutto quello che stava vivendo era molto doloroso, lo vedevamo anche, perché chiaramente un bambino di 4 anni, nel pieno della sua vitalità, come era sempre stato fino a quel momento, che era lì quieto, seduto sul divano, che a malapena camminava, quello è stato molto difficile. personalmente il fondo, come un po' prima anticipavo, è stata proprio l'idea del trapianto. Perché mi chiedevo, ma se lui ha reagito bene, sembra che sia guarito perché non aveva più avuto segni della malattia già da febbraio, quindi a distanza di pochissimi mesi, perché dover vivere anche questo? Perché è vero, il trapianto era un aiuto in più, una certezza in più, ma anche con molti rischi, anche di vita, perché in quel momento il bambino è completamente scoperto da difese immunitarie, è azzerato tutto. Lui ha dovuto fare 3 giorni di radioterapia e la radioterapia è servita ad annullare tutto. Cioè lui dentro di sé non aveva più nulla, perché dovevano infondere qualcosa di nuovo. E io avevo paura. Avevo tanta paura. Ansia, paura, pensieri, notti insonne, immagino. Le emozioni vengono provate proprio in una maniera catastrofica quando ci si trova davanti alla sofferenza di un figlio, forse più della sofferenza che un genitore può avere. Forse questo già mi riporta a una riflessione biblica, no? Alla sofferenza che Gesù ha patito, alla comprensione che non è stato l'unico a soffrire, ma anche il Padre ha sofferto con lui. Ecco, però nel vedere, ecco, la parte buia, qual è stato il momento invece più, non voglio dire gioioso, però almeno che vi ha rialzato, è stato il momento di picco? Sì, sicuramente, diciamo, è stato un po' come fare le montagne russe, perché le notizie che arrivavano erano bruttissime, e a un certo punto buone, dopo un po' brutte, buone. Io ricordo che a un certo punto, poco prima del trapianto, arriva una nuova montagna, poco prima del trapianto, una nuova montagna, ci dicono dovete fare un test specifico perché noi vogliamo sapere se a voi genitori manca un, non so se era un gene, ecco, che permette di non ammalarsi di queste malattie. Se vi manca, voi siete a rischio. Se voi siete a rischio, ecco che lui sta così, una proclamazione negativa, che ha aperto uno scenario incredibile, non tanto per me e per Enza, ma noi pensavamo anche all'altro nostro figlio Gioele. Veramente è un qualcosa che non si riusciva mai a stabilizzare. Poi grazie a Dio ci è arrivata la notizia che è andato tutto bene, noi eravamo però consapevoli che sarebbe andata così. Non avevamo nessun tipo di questi problemi che ci avevano detto i medici, ma che cosa ci dava sicurezza in questi momenti, prima del trapianto, durante queste notizie, quando ci hanno detto che era necessario il trapianto, quando ci hanno detto che la malattia rientrava nel 5%, quindi era ad alto rischio? In realtà stavamo male, ci sentivamo male e subivamo anche a livello fisico sofferenze. Però c'era la preghiera della Chiesa. E noi vi vogliamo ringraziare per questo, perché io ero presente in alcuni momenti, non sempre, Enza quasi mai, perché ovviamente era più il tempo in cui stavo in ospedale con Elias che fuori, e tra l'altro la situazione di Elias era così ad alto rischio che dovevamo, infatti mi vedevate, ci vedevate con le mascherine, dovevamo assolutamente proteggere la salute del bambino, perché abbiamo visto intorno a noi purtroppo anche casi di bambini che sono morti non per la malattia ma per infezioni durante la malattia. Non era semplice, e quando sapevamo, sentivamo, vedevamo o ascoltavamo in streaming che la Chiesa stava pregando, non solo stavamo meglio, ma poco dopo ricevevamo delle risposte incoraggianti. Non era la nostra battaglia familiare. Come Chiesa è stata ed è una battaglia che la Chiesa ha portato avanti con successo. Perché noi come Chiesa abbiamo un'arma straordinaria che è la preghiera. Più di ogni altra cosa, la preghiera, l'intercedere. È stata fatta anche l'unzione dell'olio per Elias e abbiamo ricevuto parole in quella giornata. C'erano dei ministri che ci hanno incoraggiato, ma all'interno di questi 2 anni io almeno per una decina di volte avrò sentito proprio qui: preghiamo per Elias, preghiamo per Elias. E ogni preghiera portava a un risultato eccezionale. E sentire quello che ha detto Enza non è scontato, perché Enza ha detto: io sentivo e vedevo la sofferenza negli altri bambini, ma non in Elias. Solo a un certo punto Elias ha sofferto, poco prima del trapianto, perché abbiamo fatto la radioterapia che è stata invasiva. Ma la cosa, e anche precedentemente l'infusione, ma la cosa che noi abbiamo notato è che mentre i bambini rimanevano a letto e non riuscivano ad alzarsi, lui era pimpante. Tant'è che oltre all'unico lo chiamavano il miracolato. Erano le persone in ospedale che vedevano un miracolo in Elias. Magari pensa, quando parliamo e vogliamo provare a parlare di miracoli pensando a Elias, a noi sarebbe piaciuto, come dopo la diagnosi, che i dottori in modo miracoloso ci dicessero: ma non ha più nulla, non sappiamo cosa sia successo, Dio fa miracoli. Ma il miracolo c'è stato ogni giorno. È questo il momento migliore, l'ogni giorno in cui noi abbiamo visto dei miracoli a piccole dosi nella vita di Elias, che poi sono arrivati al culmine nel periodo del trapianto, quando Elias praticamente per un anno a malapena diceva pipì, non parlava, parlava poco, si è sbloccato e ha iniziato a parlare. E secondo noi lui nello spirituale ha accolto che il trapianto era il momento opportuno, non quello che volevamo noi per lui, ma quello che Dio aveva preparato per Elias. Bellissimo, bellissimo. Volevamo fare un applauso al Signore. Gloria a Dio. Ora abbiamo ascoltato la storia, ora stiamo già cominciando a cogliere, spero che tutti noi stiamo cominciando a cogliere alcune pillole di quello che il Signore credo voglia dire anche a ciascuno di noi. Io spero che non usciamo da questo locale questa mattina solo con l'aver ascoltato una bella testimonianza che ci riempie il cuore, che ci porta sicuramente a lodare il Signore, ma anche con una sapienza per la nostra vita quotidiana. E la sapienza sta anche nell'affidarsi in preghiera. C'è sapienza nel comprendere che la Chiesa ha un ruolo nella nostra vita, e il ruolo della Chiesa è conoscere anche i nostri momenti di vulnerabilità. Richiede umiltà, cioè richiede anche molta umiltà, richiede il mettersi in gioco. Il fatto che condividere un punto di preghiera può diventare oggetto di gossip. Quanti non chiedono preghiera perché temono che nel chiedere preghiera si parli solamente dell'episodio accaduto? Avverrà, perché siamo carnali, quindi non ce lo nascondiamo, non ci nascondiamo dietro il dito o neghiamo l'evidenza. Si parlerà, si è parlato di Elias, si è forse sparlato, si è andato oltre forse anche nei commenti che si sono fatti. Però nel chiedere preghiera noi avremo la certezza che ci sarà una buona parte della Chiesa che assimilerà quella notizia per mettersi in ginocchio e chiedere l'intervento divino. E allora non rimanere nel tuo orgoglio, non rimanere barricato nel tuo timore, nella tua paura di quello che gli altri diranno, sii vulnerabile e chiedi preghiera. Se sei in una stagione difficile, non rimanere al tuo posto. Non rimanere a combattere da solo, perché il Signore non chiama nessuno di noi a combattere da solo, perché ci sono battaglie che lui ci chiama a vivere proprio per comprendere il valore dell'esercito di cui facciamo parte, e non le potremo vincere da soli, perché Dio ha stabilito la famiglia di Dio, la Chiesa, quale corpo in unità che combatte a nostro favore. Chiedi preghiera al gruppo familiare, chiedi preghiera la domenica quando facciamo appelli, chiedi preghiera al gruppo di intercessori, manda il messaggio per chiedere preghiera per quello che stai attraversando, perché c'è qualcuno che è interessato a pregare per te, lo farà, e Dio vuole questo. E quando Dio vuole qualcosa, lui l'approva con la benedizione di risposte che lui dà. Non farti bloccare dalle bugie del nemico, da tutte quelle altre timori e paure che sono carnali, umane, che vengono da parte del nemico per farti privare del beneficio e della benedizione che hai del far parte della Chiesa. Ora andiamo avanti, io li voglio spremere questa mattina, va bene? Siete pronti anche voi ad essere spremuti, perché vogliamo cogliere ancora altre ricchezze, no? Una domanda difficile da fare, però, a cui ho pensato, è: come è cambiato la vostra percezione di Dio in tutto questo? Perché è anche bello poter essere sinceri, e già l'avete colto da Enza, no? Che c'è una parte di noi, da credenti stereotipati, che sa come reagire, ma è una reazione anche molto, come dire, meccanica. Però poi devi far conto con le emozioni e renderti conto che magari vivi anche rabbia nei confronti di Dio, o stai entrando in una crisi spirituale dove cominci a chiederti se lui c'è veramente, se ascolta veramente. E allora io vorrei fare una domanda un po' più profonda su questo aspetto e chiedervi come è cambiata, se è cambiata la percezione che avevate di Dio, e cosa avete sperimentato nel vostro rapporto con Dio in questa situazione così difficile. Sì, io credo di aver provato tutte le possibili emozioni, diciamo. Penso che non me ne sono, come dire, saltata nemmeno una, ma va bene, siamo umani, abbiamo emozioni. Gesù, il Signore, ci ha creato così, anche per qualche motivo. Sì, credo di aver provato tutto: abbandono, frustrazione, rabbia. Io non ho mai dubitato di Dio. È quasi simpatico da raccontare, ma la domanda che io mi facevo non era mai: tu puoi? Perché io lo sapevo che lui poteva. La mia domanda era: vuoi? E là è iniziato a cambiare anche la percezione di Dio. Quindi non io al centro, quello che è il bene secondo me, ma secondo lui. Non mi sono data una risposta, nel senso che per ora ha voluto. C'è un'immagine che mi ha accompagnato dall'inizio della malattia di Elias, ed era questa montagna innevata, molto grande, e un puntino nero che ero io. Dietro questa montagna innevata però un sole meraviglioso. E io ho sempre tradotto quelle immagini dicendo: è una montagna, non semplice perché anche innevata, quindi doppia difficoltà, perché tu nella montagna innevata non vedi, è tutto bianco, quindi non sai se c'è un buco, se c'è una grotta, se c'è un avvallamento, non capisci perché tanto è tutto bianco. E io tante volte mi sono sentita cadere in buchi e non vedevo più il sole, però c'era il ricordo del sole, lo so, l'ho visto. E spesso mi ripetevo questa. Un'altra immagine, ed è quella che abbiamo usato con Elias e Gioele, perché è un po' più alla loro portata, è Gesù nella barca. Tempesta, i discepoli la vedevano la tempesta, cioè non è che loro non si erano resi conto della tempesta. Pioggia, fulmini, lampi, saette, e i discepoli esperti che non riuscivano a domare la barca, e Gesù che dormiva. Abbiamo spiegato così ai bambini la nostra situazione di quel momento. Siamo su una barca in tempesta, ma Gesù è con noi. Dorme, va bene, è vero, sta dormendo. Però, e non ti nascondo che tante volte gli dicevo: beh, è il momento, che dici? E non, vabbè, ha fatto la sua scelta. E quindi erano queste le immagini che ci portavamo davanti, quindi Gesù nella barca con noi, addormentato, ma presente, e questo sole. Il giorno dopo il trapianto mi sono svegliata e continuavo a ripetermi una parola, El Shaddai, El Shaddai. Diciamo, ho studiato anche la Bibbia, quindi mi sono ricordato, ho detto El Shaddai significa Dio Onnipotente. E sì, cioè io ci credo nel Dio Onnipotente. Ma durante la giornata continuava questa parola, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Vabbè, faccio una ricerca, tanto sono in ospedale, non è che ho molto da fare. E là mi si è aperta tutto un mondo nuovo, perché El Shaddai, in una traduzione diversa, non è solo Dio Onnipotente, ma è il Dio della montagna. E lì Dio mi diceva, io non sono il sole, io sono con te, nel buco, sulla neve, mentre sali, mentre scendi, mentre cadi. Non sono il sole, sono con te. E questa è stata una... Aggiungi, vabbè, hai fatto la scoperta dell'acqua calda, però in quel momento per me è stato così, è stato d'impatto, dire sì, tu sei il Dio che è sempre con noi. Quando lo vedo, quando non lo vedo, quando dormi, quando sei sveglio, quando sono arrabbiata, tu sei lì. Non sempre ho capito tutto, però lui c'è. Sì, Dio c'è sempre stato, anche quando ci siamo sentiti abbandonati. Come diceva il pastore, lo ha detto anche Gesù alla croce, Eli, Eli, lama sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io vi voglio dire una cosa, se tu ti senti nella sofferenza e hai detto, mi sento abbandonato, io non mi sento di correggerti, perché l'ha detto Gesù. Ed è una cosa buona che ci sentiamo anche così a un certo punto. Per poi realizzare quello che dice il Salmo 22, che c'è una speranza però in Dio. Gesù riprende proprio i versi, il verso dal Salmo 22, che poi continua. Mi sono sentito inerme, e io parlo a tutti i padri, Enza ha parlato da madre, quindi con un cuore di madre, io con un cuore di padre, di fronte a un figlio che non sta bene e che è a rischio, io mi sono sentito impotente. E quando un padre si sente impotente e perde il controllo della famiglia, è la fine. È inaccettabile. È inaccettabile che un bambino si ammali. È inaccettabile che i bambini muoiano nella guerra. È inaccettabile tutto questo, che una persona innocente come un bambino possa subire tutto questo. Io non l'ho mai accettato. Però a un certo punto Dio mi ha detto arrenditi. E anche Gesù si è arreso al Padre alla croce. Ha reso il suo spirito. Ha accolto la sofferenza. Ha accolto la sofferenza. Gesù alla croce ha sofferto per le nostre sofferenze. Affinché noi possiamo vedere in una prospettiva eterna il benessere, la grandezza, la ricchezza, la benedizione. Significa che Lui ci capisce. E oggi noi non abbiamo scuse. Cioè tu puoi dire la Chiesa non mi capisce. Io ti faccio l'esempio di Giobbe. Cioè io praticamente nella sofferenza ho iniziato a leggere il libro di Giobbe e ho capito che fino ad allora di Giobbe non avevo capito nulla. Perché ogni parola che Giobbe diceva, oh, ma ha ragione a lamentarsi. Ha ragione a lamentarsi pure con gli amici suoi, che potrebbero rappresentare la Chiesa, che anziché portarlo e condurlo a Dio, gli stavano a spiegare razionalmente il perché lui era malato. Ma forse è perché tu non sei giusto. E Giobbe poi era costretto a rispondere, Dio, tu lo sai che io sono giusto. A un certo punto interviene Eliu e dice, Dio è Dio, tu sei tu. tu stai vivendo le sofferenze, ma Dio è sovrano di ogni cosa. La cosa che noi dobbiamo fare nella sofferenza è arrenderci a Dio. Se noi vediamo delle persone nella sofferenza, piuttosto che parlare, aiutiamole ad andare a Dio, sosteniamole in preghiera. Ci sono delle frasi cliché che spesso, io una piccola correzione la voglio fare, ma perché dobbiamo imparare, perché come ha detto il pastore, è importante ascoltare la saggezza, che non è la mia, viene da Dio. Una delle frasi che spesso ci è stata detta è: voi potete sostenere questo perché siete forti. Ma non è così. Chi è veramente forte? In realtà noi nella sofferenza, non solo nostra, ma di credenti e anche di non credenti in ospedale, abbiamo visto quanto Dio si manifesta nella sofferenza. Perché, come ha detto Gianluca a me una volta, sentendolo da un predicatore, è facile stare dalla parte del Dio vittorioso. Che bella la vittoria, Dio guarisce, Dio sostiene, Dio dà. Quanto è difficile stare dalla parte del Cristo sofferente. Quanto ci è difficile da credenti, a tal punto che ci chiudiamo in noi stessi e diciamo: la Chiesa non ci capisce. Forse è vero, la Chiesa non ti può pienamente capire, però se la Chiesa ti sostiene in preghiera e se, come ha detto il pastore, è disponibile a sostenerti in preghiera, Dio ti capisce, perché Gesù ha compreso alla croce quello che tu hai passato e passi. Quindi non abbiamo scuse nella sofferenza. Non dobbiamo mostrare a Dio che siamo giusti e siamo meritevoli, non dobbiamo fare come ha fatto Giobbe, anzi dobbiamo fare quello che poi a un certo punto Giobbe ha fatto: tu sei sovrano, tu sei colui che mi fa volare sulle ceneri, io mi abbandono a te. Bellissimo. Stiamo ricevendo, vero? Una domanda che avevo preparato e ha a che fare proprio con la tematica della sofferenza, ovviamente. Perché il più delle volte, come credenti, siamo abituati a pensare che dove c'è Dio non c'è sofferenza. Cioè, quel Gesù che si presenta al funerale del ragazzo, e perché Gesù si presenta, il funerale diventa una festa. Perché c'è Gesù. E quindi il ragazzo viene toccato da Gesù e risorge. E tutti coloro che piangevano a quel punto fanno festa, gioiscono, celebrano. Però è anche altrettanto vero che ci sono passi biblici che dimostrano che Dio è presente anche dove la sofferenza continua ad esserci. E quindi il Getsemani è un esempio di questo, dove Gesù fa una richiesta di lui stesso a chiedere che sia rimosso tutto il calvario, tutta la sofferenza che sta già vivendo e che gli sta dinanzi, però poi aggiunge: non la mia ma la tua volontà sia fatta, e la volontà di Dio è la sofferenza per Cristo. E abbiamo letto versi, e ci sono tanti altri passi biblici che parlano della sofferenza dei credenti, e quindi come la presenza di Dio non esclude automaticamente la sofferenza. E quindi se una persona soffre, questo non è sinonimo di assenza di Dio, ma di una stagione che è prevista, che nella sua immensa grazia diventerà qualcosa che si potrà riscattare un giorno e che avrà un significato, perché poi è sempre vero quello che dice Romani 8, che tutto coopera al bene per coloro che amano il Signore. Però come avete vissuto questo? Avete già dato una risposta al senso di abbandono, però come avete realizzato a un certo punto che Dio era comunque presente nonostante la situazione non fosse risolta? Io rispondo con un verso, se Diana mi può aiutare, è il Salmo 29. Vediamo se c'è. No, non lo leggo là. L'Eterno sedeva sovrano sul diluvio, anzi l'Eterno siede re per sempre. L'Eterno darà forza al suo popolo, l'Eterno benedirà il suo popolo, dandogli pace. A me questo verso mi fa tremare, perché c'è un'immagine di Dio, di Lui che siede sul diluvio. Il diluvio ha distrutto tutto, ma Lui sedeva in quel momento. Lui sapeva. Noè no. Noè ha fatto quello che Dio gli aveva detto di fare, ma non sapeva tutto il quadro generale, sapeva un po', ma Dio sedeva. E poi continua, anzi, e quell'anzi è un secchio d'acqua ghiacciata, siede re per sempre. E lì un po' è la lotta, no? Nel dire, io vorrei delle cose, vorrei vedere la pace nel mondo, vorrei vedere nessun bambino soffrire, nessun genitore soffrire a causa di suo figlio, perché è una sofferenza brutta. Io l'ho vista negli occhi di tanti ed è da farti abbassare lo sguardo. Però lui siede il re e qualcosa deve significare. Mi immagino spesso come una portatrice di un pezzo di puzzle, ma il puzzle si completa di 1.000, 2.000, 10.000 pezzi, e io il mio. Immagino che possa andare collocato là, ma non so l'immagine più grande. Non so dare risposte alla sofferenza, per quanto l'abbia vissuta e la vivo, penso che non ce ne siano. Però so che Dio ti incontra. Come diceva Saverio, io tutto mi aspettavo di trovare in ospedale, tranne che fede, in tutta onestà. Io mi sentivo lì che dovevo essere quella, no? Che mo devo dire tutto, devo parlare di Gesù. Qualcuno da casa mi diceva, stai calma, aspetta, cioè, riprenditi prima tu e poi... E poi appena iniziavo a parlare mi bloccavo e dicevo, ah, cioè tu sei a questo livello? Ah, tu hai avuto questa rivelazione di Dio? E questo è meraviglioso, perché Dio è là. Dio è dovunque, anche nella sofferenza, anche nell'ospedale. Ed è un processo, non è una, come dire, un arrivo. È un continuo dire tu sei re per sempre, quando lo capisco e quando non lo capisco, quando è facile da accettare e quando non lo è. Potreste dire, Saverio, che in questo periodo la vostra fede è cresciuta, sì, o è cambiata? Sì. Allora, la fede è fede, viene provata, viene testata in determinati momenti della nostra vita e quindi poi si evolve, matura. Sì, lo voglio in modo concreto mostrare con un verso, anzi con un passo, Isaia 38. Sì. Allora. Sì. Dencile. Scusatelo, è un po' anziano. In quel tempo Ezechia si ammalò mortalmente. Potete ridere, non vi preoccupate, è seria la cosa, però non vogliono ridere. Posso... In quel tempo Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: così parla l'Eterno, dai i tuoi ordini alla tua casa, perché sei un uomo morto e non vivrai più. Allora Ezechia voltò la faccia verso la parete e fece all'Eterno questa preghiera: o Eterno, ricordati, ti prego, che io ho camminato alla tua presenza con fedeltà e con cuore integro e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Ed Ezechia scoppiò in un gran pianto. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Isaia in questi termini: va e di' a Ezechia, così parla l'Eterno, l'Iddio di Davide, tuo padre. Io ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Sì, poi questo passo continua con il ringraziamento del re Ezechiele, che è stato guarito. Eravamo nel post-trapianto, quindi Elia si era tornato a casa Mentre pensavo ed ero con Dio, mi sono ricordato di questo episodio, lo sono andato a rileggere e poi ho sentito nel cuore questo: un giorno in più. Non si sapeva ancora granché, anche perché dopo il trapianto noi abbiamo avuto altre complicanze post trapianto, quindi comunque diciamo, la lotta è andata avanti. Ed eravamo in questa fase di lotta dovuta a una forma di rigetto dell'organo verso dell'organo trapiantato verso il corpo di Elias. E quindi eravamo lì, pregavamo, speravamo che finalmente arrivasse la quiete, che non arrivava mai. E a un certo punto ero seduto vicino al letto di Elias e mi piaceva stare molto con lui perché mi era mancato tantissimo. E noi prima di andare a letto preghiamo tutti insieme, è una buona abitudine che abbiamo di pregare con i nostri figli. Però io poi vicino a lui pregavo ancora, mentre lui si addormentava perché prendeva tempo. Come persone, noi è vero che non abbiamo il concetto dell'eternità, perché forse la cosa più sbrigativa è dire: è vero, non so se ci sarà Elia, se lo avremo, non lo avremo, non conosciamo. Cioè, noi vogliamo accettare tutto, anche di quello che è il piano di Dio, non c'è ancora chiaro. Sì, ha fatto il trapianto, però non sta ancora bene. Le domande arrivano. Sì, delle volte noi potremmo consolarci col concetto dell'eternità, ma sinceramente il concetto dell'eternità noi non ce l'abbiamo dentro di noi, quindi non riusciamo a consolarci pienamente. Però qui è cambiato qualcosa quando ho iniziato a ringraziare Dio per il giorno in più, e mi sono reso conto che non dovevo fare il conto alla rovescia, ma dovevo conteggiare e ringraziare Dio come stava facendo il re Ezechia, perché il processo di guarigione stava andando avanti e quello era un giorno in più. Noi non sappiamo di quanti anni Dio allungherà la vita di Elias. Sicuramente senza le cure che sono volute da Dio, cioè Dio comunque ha dato a noi l'intelligenza e la sapienza per conoscere le cure, vi posso garantire che pure se si conoscono le cure non vengono al 100% applicate, perché la scienza non è perfetta sulla persona e quindi siamo sempre a rischio, e lo sapete bene. E noi abbiamo Dio che però ci protegge. Ma cambia il modo di pensare. Cioè, oggi io posso ringraziare Dio perché c'è Enza vicino a me. E non è scontato. Noi diamo per scontato che le persone stanno vicino a noi. Per sempre. Fino a quando non diventeranno vecchi, fino a quando non arriverà il momento. Diamo troppe cose per scontato. Poi non si rivelano tali, perché la Bibbia dice che i nostri piani non sono i piani di Dio. Per questo oggi la mia preghiera, il mio modo di pensare si è invertito. Ogni volta che sto vicino a Elias mi ricordo di questo verso e dico: grazie, perché Elias è guarito, sono un tot numero di anni, io spero che ne siano 70, 80, 90 in più. Io non lo so quanti ne sono, però oggi è il giorno in più, oggi è il giorno in cui possiamo ringraziare. E noi siamo tenuti a celebrare ogni giorno la vita. Cioè, noi ci alziamo, ringraziamo Gesù perché ci siamo, perché i nostri familiari ci sono, perché non è così scontato che ci siano. Quindi siamo chiamati ogni giorno a celebrare la vita. E questo è, diciamo, il passo. Quindi la fede non è cambiata, ma sicuramente da questo punto di vista è maturata, è arrivata a questa conclusione. Gesù dice ad ogni giorno il suo affanno, no? Come soluzione all'ansia, come soluzione alla paura della vita. E però anche c'è un salmo che dice: questo è il giorno che Dio ha fatto, no? Celebriamo in esso, rallegriamoci in esso. E quindi oggi abbiamo motivo di rallegrare, no? Abbiamo motivo di celebrare, di lodare il Signore. E credo che questa è una pillola fondamentale, non solo per chi attraversa una stagione difficile, ma per ogni credente, perché oggi abbiamo, e questo è il giorno che il Signore ci ha dato e vogliamo in esso celebrarlo. Quindi io voglio invitare il gruppo Lode, perché adesso andremo a lodare il Signore, e mentre loro salgono sul palco e si preparano per guidarci in un tempo di adorazione, io vorrei chiedere ancora, come sta Elias? Elias sta bene, adesso sta bene, sta facendo i controlli, sì. Non sono molto ravvicinati, è finito la prima elementare, è stato grandissimo, bravo. È bravo, è intelligente, conosce la geografia senza dubbio. È molto brillante. Cosa avreste da dire a chiunque sta attraversando un tempo di difficoltà e di sofferenza? A me ha parlato molto la storia di Elia. Ovviamente durante la malattia di Elias, ho letto un piano e mi ha aiutato a comprendere delle cose che mi erano sfuggite. Io vi voglio passare questo. Dio ti vuole incontrare là dove sei. Elia ad un certo punto è stato mandato presso un torrente e Dio gli ha detto: rimani qua, perché qua i corvi verranno a darti da mangiare. Tra l'altro l'immagine dei corvi è anche l'immagine di un animale impuro, quindi da chi non ti aspetti può arrivare l'aiuto, da chi nemmeno lo vorresti. Aspetta là. Poteva dargli da mangiare in qualsiasi altro posto, ma Dio aveva scelto là. Dio ti vuole incontrare là. So che ci fa paura e nessuno è così masochista da dire voglio restare in questa sofferenza, però io so la certezza che Dio è là con te in quella sofferenza e ti vuole incontrare. Non sta lì tanto per, ha qualcosa per te, sicuramente sì. A te piace? Sicuramente no, però Dio sta lì e ha deciso che là deve darti qualcosa. Il mio incoraggiamento è questo: i momenti di sconforto, a volte capitano sofferenze come la nostra, non voluta, altre ce le andiamo a cercare, ma non importa se te la sei cercata o se è arrivata, Dio è là e ti sta aspettando per darti da mangiare. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare e adorare il Signore.